Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Un abuso al giorno. Vi ricordo, la mail è esattamente uguale al titolo della nostra trasmissione, vale a dire un abuso al giorno @radio24.it. Vi ricordo anche il mio blog sull'home page del Sole 24 Ore, si chiama Guardie o Ladri. Se preferite raggiungerlo attraverso un motore di ricerca, basta che digitate il blog, il mio nome e cognome, e lo trovate. Mi farà piacere se lo visiterete e lo commenterete. Siamo giunti oggi alla terza puntata della nostra inchiesta in un fenomeno che sembrava passato, sembrava ormai dimenticato, e che invece sta tornando, non dico prepotentemente, ma sta tornando alla ribalta. Parlo del contrabbando di sigarette. Ricordate il film Ieri, Oggi e Domani, in cui una splendida Sophia Loren interpretava Adelina, poi un personaggio davvero esistito nella realtà, che vendeva sigarette di contrabbando e, per non andare in carcere, continuava a mettere al mondo dei figli. Ora tutto è cambiato rispetto ad allora. Questo film è del 1963, la regia era di Vittorio De Sica. Oggi il mondo è cambiato e abbiamo sentito nelle due precedenti puntate, attraverso le voci del generale della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Ancona, Giambattista Urso, del colonnello Nicola Sibilia, capo del GICO, del gruppo contro la criminalità organizzata della Guardia di Finanza di Trieste, che i metodi sono diversi. Ora, in questo nostro viaggio che ha toccato il centro Italia e il nord Italia, scendiamo al sud Italia e andiamo dove? Segnatamente a Reggio Calabria, dove ci attende un amico del Sole 24 Ore, un amico personale, il colonnello Alberto Reda, capo della Guardia di Finanza di Reggio Calabria. Buongiorno colonnello. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Allora, in questo viaggio noi abbiamo capito finora alcune cose e vediamo se valgono anche per la vostra realtà, vale a dire per Reggio Calabria. Ricordiamo che in Calabria c'è un porto fondamentale per l'intero Mediterraneo, è il porto di Gioia Tauro. Abbiamo capito che i modi in cui arrivano le stecche di contrabbando sono due: o le grandissime quantità che sbarcano, arrivano con i tiro, arrivano con i container e poi prendono le strade più impensate, soprattutto il nord Europa, oppure c'è un piccolo contrabbando di persone che le portano con piccoli furgoncini, arrivano a destinazione e lì vengono subito smistate per un commercio domestico, soprattutto fatto di stranieri e di extracomunitari. Ecco, partiamo da qui. A Reggio Calabria, la sua regione, la situazione com'è? Allora, io innanzitutto devo fare un piccolo inquadramento per far capire ai radioascoltatori che cosa significa il porto di Gioia Tauro. Certo. Il porto di Gioia Tauro oggi è il maggiore terminal container per il transshipment, cioè per il trasferimento dei container dell'intero Mediterraneo. Questo perché, grazie alla sua centralità geografica, consente di servire in maniera ottimale sia gli operatori che spediscono dai porti orientali che quelli che trasferiscono merci dai porti occidentali. E purtroppo queste caratteristiche lo rendono particolarmente appetibile per le consorterie criminali che affliggono il nostro territorio e che naturalmente sono interessate ad infiltrarsi negli affari illeciti più lucrosi. Quindi compreso anche il contrabbando di sigarette. Il traffico di TLE di contrabbando. Certo. Si tratta di un fenomeno che al di là dell'immaginazione, del romanticismo che lo ha accompagnato fino a qualche anno fa, si tratta di un fenomeno transnazionale che è di grande pericolosità sociale, economica e fiscale, ed è in grado di turbare chiaramente l'ordine e la sicurezza pubblica, oltre che di sottrarre risorse ingenti al bilancio nazionale e a quello dell'UE. Non dimentichiamo che i tributi doganali sono una risorsa propria dell'Unione Europea. Certo, certo. E naturalmente finanziando, in ragione dei profitti che accumulati, le stesse organizzazioni criminali. Ecco, a proposito di organizzazioni criminali, colonnello, le chiedo questo: noi finora abbiamo visto che ad Ancona e a Trieste le organizzazioni criminali dominano il mercato, segnatamente la camorra, con ovviamente collegamenti con le mafie straniere, soprattutto quelle del ex repubbliche sovietiche e delle ex repubbliche della Jugoslavia. Qual è invece la situazione in Calabria? Credo che lì non possa assolutamente metter becco la camorra, ma probabilmente saranno le cosche della Piana di Gioia, le cosche dell'Andrangheta a dominare il mercato. Guardi, purtroppo la nostra esperienza diciamo operativa e investigativa ci ha dimostrato nel tempo, e anche l'esperienza diciamo giudiziaria dei procedimenti che sono in corso, sono stati conclusi presso la procura, la distrettuale antimafia di Reggio Calabria, che le cosche storiche della Piana di Gioia Tauro, quindi di Rosarno, San Ferdinando e la stessa Gioia Tauro, esercitano una grande influenza sui traffici commerciali all'interno del porto. Certo. Posso dire inoltre che la principale direttrice del traffico di Tele attraverso il canale di Suez, con provenienza da paesi quali la Cina, gli Emirati Arabi Uniti e l'Egitto, con due differenti rotte di destinazione. La prima ha come terminale finale i più importanti scali del bacino del Mediterraneo. La seconda attraversa l'intero Mediterraneo da Suez fino allo stretto di Gibilterra e ha come meta finale i porti del nord Europa. La maggior parte delle sigarette di contrabbando che noi sequestriamo quindi non è diretta al territorio nazionale, e questo probabilmente a causa del fatto che la legislazione nazionale nel tempo si è adeguata prevedendo degli strumenti di intervento incisivi e anche delle pene molto severe, per cui i contrabbandieri ritengono diciamo più agevole, più comodo. Ma quindi a questo punto, volgarizzandolo e rendendolo un pochettino come dire più popolare, questo discorso vuol dire che, mi corregga colonnello se sbaglio nella mia ricostruzione, questi tabacchi lavorati esteri, quando lei dice TLE, questo vuol dire appunto, arrivano dalla Cina, dagli Emirati Arabi, dall'Egitto, e da lì poi prendono altre strade. Esattamente. Ma che strade prendono? Nord Europa, tornano indietro, cioè quali sono le rotte privilegiate? Le rotte privilegiate, come le dicevo, sono alcuni importanti porti del Mediterraneo, ho capito, anche diciamo dei paesi del Nord Africa, ovvero i paesi del Nord Europa, quindi Belgio, Olanda, Inghilterra, dove c'è una legislazione che diciamo non più permissiva. Esattamente, più permissiva, perché storicamente in questi paesi il fenomeno non era stato di grande rilevanza, come invece è accaduto in Italia, dove, come lei ricorderà, negli anni 90 ci furono fatti gravissimi, soprattutto sì, in Puglia, esattamente, con addirittura con macchine militari, certo, cittadini privati che hanno perso purtroppo la vita durante questi... Assolutamente, ricordiamo giustamente le vittime cadute delle forze dell'ordine nella lotta al contrabbando. Io ricordo che a Conversano, quindi siamo in provincia di Bari, in Puglia, c'erano addirittura questi tir, questi SUV dei contrabbandieri con i rostri che erano in grado di perforare i SUV e comunque fuoristrada della Guardia di Finanza o delle altre forze dell'ordine. Comandante, veniamo alla vostra opera di prevenzione. Come siete attrezzati? Quanti uomini avete? Quanti controlli fate? Ci parli un po' della vostra opera. Allora, io le posso dire qual è il nostro dispositivo di vigilanza. Certo. Quindi il dispositivo di vigilanza che abbiamo in atto si sviluppa attraverso diciamo un'attività di riscontro che i nostri militari effettuano in coordinamento funzionale con il personale dell'Agenzia delle Dogane presso i varchi doganali e presso il varco ferroviario sito all'interno dell'area portuale. Certo. E nonché mediante un'attività di vigilanza e controllo che viene eseguita dal nostro personale lungo gli spazi e lungo il perimetro doganale in maniera costante, anche attraverso l'utilizzo di strumentazioni tecnologicamente avanzate del tipo scanner a raggi X. Queste strumentazioni consentono in particolare di individuare, attraverso il confronto con una base di dati che viene gestita direttamente dall'Agenzia delle Dogane ed alimentata anche dal corpo, i carichi che non risultano visivamente compatibili con quanto documentalmente dichiarato. Certo. Grande importanza inoltre noi attribuiamo all'analisi di rischio che alcuni nostri uomini, diciamo fra i più esperti, eseguono su tutti i container in arrivo o in transito nell'area portuale di Gioia Tauro, comparando documenti doganali con alcuni parametri significativi, diciamo, di elementi fatti di rischio ed o da anomalie. Benissimo. Questa è la nostra, diciamo, il nostro metodo di lavoro. La vostra opera di prevenzione e vigilanza. Ecco, io colonnello la ringrazio per questo suo intervento. Chiudiamo oggi questa inchiesta nel mondo del contrabbando. Se avete anche quesiti o proposte su questo tema degni di approfondimento, segnalate alla nostra mail unabusoalgiorno@radio24.it. Non accade più tanto spesso in Italia di trovare sigarette di contrabbando, abbiamo sentito che prendono altri liti, ma ricordatevi sempre che non c'è nulla di romantico nell'acquistare stecche di contrabbando nel momento in cui lo fate, oltre a frodare lo Stato, quindi voi stessi, nel frattempo alimentate e foraggiate la criminalità organizzata che si chiama camorra, che si chiama 'ndrangheta, che si chiamano mafie straniere. Quindi pensiamoci non una volta ma un milione di volte, quindi prima di andare contro le regole di convivenza civile. Io ringrazio in regia Fabio Cantadori, in studio Laura Faggin, Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.